Gabbiano e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Non so se questo vale anche per voi, però ci sono dei personaggi che al solo pensarci mettono allegria, scatenano quel buon umore misto a un senso di vicinanza affettuosa, e credo proprio che questo sia il caso della nostra protagonista di oggi, perché è una donna che fa scattare un sorriso benevolo quando si sente il suo nome, soprattutto per quelli della mia generazione, ma anche per quelli più giovani di me. Pensate che lei non era una donna di buon carattere, era una capace di essere molto tagliente, però aveva un'ironia, una sagacia, un'intelligenza unita a una sincerità senza compromessi che hanno fatto di lei una grande donna, oltre a essere una grandissima attrice. È morta a 95 anni passati. Lei amava con molta autoironia definirsi la grande vecchia. Lei diceva che vecchio è un termine migliore di anziano, perché lo si dice di cose pregiate, una vecchia casata, un vecchio amico, un grande vecchio. Quindi noi oggi celebriamo la grande vecchia del teatro per ricordarla a quelli che la conoscevano e magari per farla conoscere meglio a dei giovani che l'hanno vista in qualche spezzone di film o di sceneggiato televisivo. Insomma, oggi parliamo della grandissima Paola Borboni, una straordinaria artista, l'interprete pirandelliana per eccellenza, ma parliamo anche di una donna che era avanti anni luce rispetto ai suoi tempi, perché era moderna, era assolutamente anticonformista ed era pungente, molto pungente. Ascoltatela in questo resoconto che fa lei stessa di una lite che era avvenuta con Renato Rascel, col grande Rascel, che era grande ma era un po' piccolo di statura, anzi molto piccolo di statura. Dunque, vi racconterò le mie meravigliose liti nel teatro italiano, perché io ho litigato con tutti. Una delle più recenti è quella con Rascel. Lui era sempre un po' nervoso, un giorno non so come, sapete come sono le liti? Un'occhiata, una parola, scoppia. A un certo punto lui ha detto la parola che io aspettavo. Vecchia! Logico! Sai, che scoperta! Vecchia! Vecchia! E gli ho detto, senti caro, senti, sì, sono vecchia. Sono vecchia, però sono stata giovane. E bella! Tu alto mai! Rascel se l'era un po' cercata. Lei è sempre stata così, diretta, schietta, una donna eccezionale sotto tutti i punti di vista. Qualcuno ha detto di lei che il suo confronto Madonna era una dilettante. Lei peraltro è stata la prima in moltissime cose, il primo nudo in teatro è stato suo, la prima attrice a fondare una compagnia pirandelliana, la prima, insomma non ce ne sono state molte, donna che a 72 anni ha sposato un uomo di 30, è stata la prima a recitare con il femore rotto con le stampelle, insomma era una donna particolare con una vitalità unica. Paola Borboni nasce nel quartiere Golese a Parma il primo gennaio del Novecento, il primo giorno del secolo. Era una data decisamente particolare che le ha sempre permesso di definirsi ironicamente la prima attrice del secolo. La sua è una famiglia benestante, il padre è un impresario del teatro lirico, la madre è l'erede di una fiorente azienda e lei fin da piccola dimostra un ego potentissimo, uno spirito libero, indomito, una mente vivace, e non ci sono molte ragazze come lei in giro e si capisce subito che diventerà qualcuno grazie al padre. Nel 1916, quindi a 16 anni, con la Borboni i conti sono facili da fare, debutta in teatro come attrice nella commedia dei fratelli Quintero Il fiore della vita. Intanto studia recitazione, viene ingaggiata come attrice giovane nella prestigiosa compagnia di Alfredo De Sanctis, che era uno degli attori di teatro più noti di quell'epoca, e nel 1920 entra nella compagnia di un'altra leggenda, anzi due leggende, Irma e Emma Grammatica, le famosissime sorelle padrone del teatro di quegli anni. Quando la grande Irma si ammala, lei la sostituisce nel ruolo della prima donna. E questo la fa notare dai grandi interpreti del momento, Armando Falconi, che è un altro notissimo attore del tempo, capocomico della sua prestigiosa compagnia, la sceglie per un ruolo particolarissimo. Paola ha 22 anni, è molto bella e le foto dell'epoca ci mostrano una giovane donna molto avvenente e consapevole della propria avvenenza. Insomma, Falconi le propone la parte della protagonista nella commedia Alga Marina di Carlo Veneziani. La rappresentano la prima volta il 12 settembre del 22 a Roma, e quella sera capita qualcosa destinato a cambiare per sempre non solo la vita di Paola Borboni e la sua immagine, ma anche un po' la storia del teatro italiano. Il falco e il gabbiano. E arriviamo a quella mitica sera del 12 settembre 1922. Siamo a Roma e va in scena la commedia brillante Alga Marina di Carlo Veneziani. È rappresentata da quella che allora è considerata una delle compagnie teatrali più prestigiose dell'epoca, quella diretta dal famoso capocomico Armando Falconi. La prima attrice è lei, Paola Borboni, che interpreta il ruolo della sirena. Beh, la rappresentazione procede tranquilla, ma improvvisamente avviene qualcosa che crea forte scompiglio tra il pubblico in sala. Tutti si agitano, chi ha la fortuna di essersi portato il binocolo lo punta sul palco, cercando di avvicinare quanto più possibile la scena che si sta rappresentando in quel momento. La sirena che viene pescata da un pescatore. E com'è la sirena? La sirena è nuda. Ricordiamoci che siamo nel 1922. Ascoltate come la racconta lei, la Borboni, anni dopo in un'intervista realizzata col grande Luciano Salce. Perché devi ammettere che storicamente nella storia del teatro italiano il primo nudo l'hai fatto te con Alga Marina. Sì, insomma, sì, sì, beh, ma ci voleva, ero una sirena, uscivo dal mare, Falconi, che era un pescatore, mi pescava e si meravigliava tanto, però non si meravigliava del nudo, perché chi aveva fatto quella commedia, Carlo Veneziani, aveva capito che un uomo di mare poteva anche essere preso dall'illusione di avere pescato una vera sirena, che potevo uscire col paltò, ma insomma. Più avanti nella commedia la sirena visita il mondo terrestre, quindi indossa i panni di una donna, e poi quando deve tornarsene nell'acqua cosa fa? Si toglie gli abiti, niente di più naturale, quindi Paola Borboni rimane nuovamente nuda, e ovviamente è uno scandalo clamoroso. Il giorno dopo sulla stampa compare un articolo a commento del fatto. Ieri sera si è rappresentata per la prima volta la commedia Alga Marina di Carlo Veneziani. Come è noto, la prima attrice della compagnia Falconi, Paola Borboni, interpreta la parte della sirena. Nel terzo atto avrebbe dovuto fingere di togliersi gli abiti per ritornarsene nel mare, ma la signorina Borboni ha curato con troppa minuziosa esecuzione l'atto decisivo e si è mostrata al pubblico completamente nuda, facendo scalpore tra i presenti e mobilitando binocoli su binocoli. Immaginate tutto questo nel 1922, e lei non mobilita solo i binocoli, perché la questura intima intanto a Falconi di non far ripetere quello spogliarello. Ci sono interrogazioni parlamentari, il governo indice una riunione straordinaria per decidere che posizione prendere riguardo alla vicenda. Minaccia la chiusura dello spettacolo, lo scioglimento della compagnia per atti osceni. È veramente un polverone mediatico gigantesco che ha l'effetto di rivestire la sirena e di catapultare la signorina Paola Borboni nell'Olimpo della notorietà nazionale. La sirena diventa il trampolino di lancio di Paola Borboni, però lì erano tempi diversi, cioè oggi assistiamo a donne che si presentano senza mutande sul tappeto rosso a Cannes, che fanno qualsiasi cosa per attirare l'attenzione, postano foto di nudi studi quasi ginecologici, però poi non hanno il minimo talento per supportare quel quarto d'ora di celebrità che le investe. Qui invece stiamo parlando di una grandissima interprete di talento, di spessore, e ha solo 22 anni, deve ancora farsi un nome. Tutti vanno a vederla, questa Alga Marina, anche se ovviamente le sere dopo lei non si può più rispogliare, però lei sta studiando e sta gettando le basi per una carriera che sarà meravigliosa, e anche perché a questo punto c'è un incontro che è destinato a cambiarle la vita, è un incontro letterario, l'incontro con le opere di Pirandello, che diventeranno sempre più la sua fonte di ispirazione. Lei sarà l'interprete pirandelliana per eccellenza, diventa prima attrice della famosa compagnia di Ruggero Ruggeri, nel 35 diventa capocomico donna, facendo una sua compagnia, quindi dimostrando anche grosse doti di imprenditrice. E poi si avvicina anche al genere leggero, spesso fa compagnia insieme al grande Odoardo Spadaro, fiorentino, la porti un bacione a Firenze. Ma nel 42 lei stupisce tutti perché fa una memorabile interpretazione dell'opera di Pirandello, La vita che ti diedi. La rappresenta al Teatro dell'Università di Roma, insomma fa una scelta molto coraggiosa, perché Pirandello aveva scritto questo dramma apposta per Eleonora Duse, lei non aveva fatto in tempo a recitarlo perché era morta, Pirandello l'aveva ritirato dalle scene perché era un testo difficile. Bene, Paola Borboni porta in teatro questo testo con tutta l'abilità e il suo grande spessore, dimostrando una grandissima versatilità. Lei sa passare dalla rivista al dramma con grande naturalezza. Non è facile, perché in genere gli attori vengono etichettati, ci sono quelli che fanno ridere, quelli che fanno piangere. Lei invece dà prova in entrambi i casi di essere una grande attrice. E poi lei è anche di fatto quella che inventa un genere teatrale, il monologo, che oggi va molto di moda, che si è evoluto, che negli anni 40 e 50 non esisteva. Lei con questa innovazione segna una tappa importantissima nella storia del teatro del Novecento. Io sono rimasta nubile grazie al passato remoto. Così proprio. Intanto nel discorrere io esigo esattezza, proprietà, possibilmente buona lingua, anche pure. E io mi chiamo e chiamai e chiamerò Clotilde, e detesto diminutivi, vezzeggiativi e troncamenti. Tildeina, Tildina, Tilli, Cloti. E mi senti chiamare anche pure Cloti. Grazioso alla francese, invenzione del fidanzato Usbelli, in vena di espansione affettuosa, e ci teneva, benché l'avessi in antipatia io. Lei ha in mente questo progetto già dall'inizio degli anni 40, ma mancano testi, i tempi si allungano, si arriva agli anni 50, però la sua insistenza, la sua determinazione scatenano l'inventiva di molti autori che cominciano a cimentarsi in questo genere, scrivono testi brevi ma intensi che devono essere recitati solamente da lei sola sul palco, e lei riuscirà a allestire tra il 54 e il 68 5 recital formati da 5 testi ciascuno, insomma un esperimento molto importante del quale peraltro sono rimaste anche tracce fonografiche allora, insomma sono rimasti dei dischi. Ma accanto alle sue attività teatrali, lei è anche una grande attrice di cinema, è una caratterista, diciamo così, nella sua carriera lunghissima reciterà in una settantina di film, il primo nel 1918, l'ultimo nel 1990, ha lavorato per Fellini, per Germi, ha lavorato con Manfredi, insomma ci sono veramente ancora tante cose da dire sulla grande Paola Borboni. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di un gigante donna, una grandissima interprete, una presenza storica nel teatro italiano, ma anche nel cinema, nella televisione, alla radio. Paola Borboni, una delle carriere più lunghe del mondo dello spettacolo, 80 anni dal suo debutto appena sedicenne fino all'ultima apparizione in pubblico pochi mesi prima di morire a 95 anni passati. È una donna di talento enorme, ma anche di grande sagacia, di senso dell'umorismo, di grande ironia, e parte scandalizzando l'Italia quando giovanissima appare nuda in scena, prima donna che lo fa in teatro, e poi anni dopo scandalizza ancora l'Italia sposando un uomo più giovane di lei di 40 anni. Le sue interpretazioni passano alla storia così come una personalità assolutamente anticonformista, battute graffianti, tutte cose che l'hanno fatta amare anche dal pubblico meno colto, l'hanno fatta amare per la sua intelligenza fuori dal comune e per la sua grande sincerità. Abbiamo raccontato la partenza della sua carriera dal nudo scandaloso alla passione per Pirandello. A questo punto lei continua a difendere, anche quando non è più una donna piacente perché gli anni sono passati, lei continua a difendere quel tipo di scelte, cioè non si inacidisce. Per esempio, già in età avanzata si trova a discutere animatamente con l'attrice teatrale Manuela Kunsterman proprio su questo argomento, sulle donne che si spogliano. Io le volevo chiedere, oggi si spogliano un po' tutte le attrici, anche quelle che possono, perché lo fanno, cioè perché le attrici del teatro ufficiale, certe attrici ricorrono adesso a questo espediente del nudo, perché? Beh, che senso ha questo? Ma cara, perché quando è successo il personaggio lo permetteva. Perché non fa mica così, si apre la camicetta. Beh sì, molte volte si fa così, cioè no, siccome no. Questa è un'accusa che viene rivolta allora al teatro d'avanguardia. Allora sei gelosa che le altre si spoglino. Sta attenta, giorno vengo a teatro io, mi metto una calza a maglia, mi levo il paltò e vengo sul palcoscenico e ti dico: impara quanto è bella la mia vecchiaia. Non le manda a dire lei, e questo fa di lei un grande personaggio nella sua totalità. Ci sono molte sue interpretazioni anche nel avanti con gli anni, e specialmente interpretazioni cinematografiche dove lei è lei al di là della scena, del personaggio, e gli sceneggiatori apprezzano il suo modo di essere, che le cuciono quasi addosso dei ruoli. Il cinema è l'altra faccia della sua carriera portentosa, e appare per la prima volta nello schermo nel 1918. Jacopo Ortis è il film, un film muto, e chiude la sua carriera cinematografica nel 90, cioè 72 anni dopo, Blue Dolphin di Giorgio Moser. In questo lasso di tempo spaventoso lei prende parte a quasi 80 film. Per esempio, c'è una pellicola molto bella nella quale lei viene diretta da Germi, la pellicola è Gelosia del 53, ma poi ci sono anche l'Attuada, Lizzani, insomma tutti i grandi vogliono Paola Borboni nei suoi film. E così la troviamo nel cast dei Vitelloni di Fellini, Vacanze Romane, quello con Audrey Hepburn e Gregory Peck, lavora con Mauro Bolognini, con Pasquale Festa Campanile, con Manfredi in Per Grazia Ricevuta, recita in un episodio meraviglioso di Sesso Matto di Dino Risi con Giancarlo Giannini, che le fa una corte terribile, insomma, ed è un episodio veramente divertente. Fammi entrare, professor, lasciami entrare. Non se ne vada, mi lasci stare, sono una povera vecchia. Sei meravigliosa, non aver paura di me, non voglio concupirti, io sono pazzamente per... Ma cosa vuole da me? Io potrei essere sua nonna. Voglio un bacio. Sono giorni che penso al fuoco delle sue labbra. Ma perché dovrei baciarla? Non siamo neanche parenti, e poi perché mi dai il tu? Ma perché ti desidero. Giorgio. No, non sfuggirmi, devi essere mia, soltanto mia. Sarà bello, vedrai. Ma non guardarmi con quegli occhi di gazzella ferita a morte, povero passerotto, passerottino mio. Guarda, ti ho portato in mezzo all'inglese. Pazzottino, è bellissimo questo episodio nel quale poi Giannini tradisce questa donna di 60 anni più vecchia di lui con la madre di lei. Ma poi è ancora in altri film, Il vizietto 2 con Tognazzi, Più bello di così si muore con Enrico Montesano, poi c'è un film con Johnny Dorelli che si chiama Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, dove lei interpreta una formidabile marchesa, la marchesa del Querceto. Avanti! Marchesa? C'è il mago? Gaspar. Gaspar è qui. Bravo Artemio, fallo venire avanti. Che altro devo fare, signora Marchesa? Non mi rompere i coglioni. Signora Marchesa? Sì, che tu saresti il mago. Canestrari Gaspar, in arte Gran Gaspar. Ah, e accomodati qui vicino. Sì. Accostati, hai visto quella gente di là? Sì, l'ho vista. Un po' l'aria di figli di Bignotta, sono i parenti miei. Quelli, siccome devono ereditare tutto, ci hanno provato a farmi morire prima, ma se la sono presa nel culo, perché io morirò, ma peccato. Anche se lei ha interpretato tantissimi film e grandi film di successo con attori importanti, con i registi più grandi, in realtà il vero amore di Paola Borboni è stato indubbiamente il teatro, e a teatro soprattutto Pirandello. Lei recita Pirandello per tutta la vita, inizia negli anni 20 facendo Gasparina in Ma non è una cosa seria, e poi abbiamo già citato La vita che ti diedi del 42. Nel 47 fonda una compagnia pirandelliana, la Picasso Borboni, e poi prosegue tutta la vita. Nella stagione 91-92, quindi a 91 anni suonati, fa un recital che si chiama Io e Pirandello, e alla fine della sua vita praticamente, nel 94, mette in scena Berretto a Sonagli, insomma un amore incondizionato che segna tutta la sua esistenza e tutto il Novecento. Ascoltate per esempio Paola Borboni in una rarissima registrazione tratta da Così è se vi pare. Potevo dir loro, come va dicendo lui, che la mia figliuola è morta da 4 anni e che io sono una povera pazza che la crede ancora viva e che lui non me la vuole lasciar vedere. Ah, ma come? La sua figliuola? Vedono che è vero, perché vogliono nascondermelo. Ha detto loro così. Sì, difatti ha detto... Ma se lo so, e so purtroppo che turbamento gli cagiona l'essere costretto a dire questo di me. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti stenti, attraverso tanti dolori, si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. E lei è un camaleonte che passa dal teatro impegnato al cinema comico, alla televisione, agli sceneggiati. Per esempio c'è Piccolo Mondo Antico, è realizzato dalla Rai, nel quale lei ha una parte molto importante, ma poi c'è un primato del tutto particolare. Dunque vi ricorderete, almeno alcuni si ricorderanno, la trasmissione di Enzo Tortora, Portobello, una trasmissione rivoluzionaria che cambiò la televisione italiana, cavallo tra gli anni 70 e 80, fu un successo incredibile. A un mercato pazzerello dove trovi questo e quello, e c'è pure un pappagallo con il becco giallo. Era un programma dal quale tutti hanno copiato negli anni a venire, ma in questo programma c'era soprattutto un pappagallo che appunto si chiamava Portobello. Ai concorrenti di questa trasmissione veniva data la possibilità di tentare di fargli dire la parola Portobello, che era il suo nome, e nessuno era mai riuscito in un'impresa che sembrava impossibile. Tutta l'Italia ci provava, era diventato un tormentone mediatico in quell'Italia di fine anni 70. Bene, Paola Borboni ci prova anche lei. È il primo gennaio dell'82, quindi siccome sappiamo fare i conti, è il suo 82esimo compleanno. Paola, dunque, io sarei felice che tu riuscissi con la tua magia, ecco, ha già parlato, hai sentito, a spezzare l'incantesimo di questo terribile animale. E vediamo se la magia di questa grande attrice, che ha commosso tanti, non riesce a commuovere il nostro terribile Portobello. Allora, attenzione, io ti do 30 secondi. Partiamo, via! Paolo, è un film muto questo. Coraggio. Portobello! Portobello! Portobello! Portobello! L'ha detto! Per un'Italia pre-internet e pre-cento canali televisivi, insomma, quello fu un evento clamoroso. Ma c'è un altro fatto molto importante che riguarda la vita privata di questa grande attrice, un fatto che fa scandalo ancora forse di più del suo famoso nudo in palcoscenico. Lei non si era mai sposata, dicendo di essere sposata al teatro. Il 18 settembre 1972, quindi va per i 73 anni, si sposa con Bruno Villareggio in arte, Bruno Villar, un poeta, un attore, che però ha 30 anni, quindi 42 anni meno di lei. Lei riesce a spiazzare ancora una volta, è molto spiritosa e lei lo presenta in giro come il mio vedovo, con il riferimento evidente all'enorme differenza d'età. E invece, siccome la controgufata è micidiale, ironia della sorte, il 23 giugno del 78 i due, ahimè, hanno un tremendo incidente d'auto e il giovane perde la vita mentre lei subisce la frattura di entrambi i femori e da quel momento sarà costretta all'uso delle stampelle. Per lei è una tragedia tremenda che però non la ferma, arriva a recitare in teatro con le stampelle perché nulla può domare Paola Borboni. Muore il 9 aprile 1995 in una casa di riposo di Varese, viene stroncata da un ictus. Però vogliamo terminare questa puntata su questa grande attrice con un ricordo che le dedica Mina in una sua trasmissione radiofonica, un ricordo molto bello perché sottolinea un po' lo spirito che aveva Paola Borboni, che la sua dote più incredibile era quella, la sua verve, e questo che l'ha resa una donna inconfondibile, unica. Non so se a voi è mai capitato di desiderare che una persona che non c'entra niente diventi regina, Presidente della Repubblica, vostro medico curante, direttrice generale delle ostetriche italiane, comandante in capo delle forze armate europee e maestra di vostro figlio, tutto questo tutto insieme. Ecco, io ho una voglia del genere, una voglia di questo tipo, l'ho avuta l'altra notte, mentre rivedevo un'intervista a Paola Borboni. Insomma, ditemi voi se non c'è da fidarsi di una persona che per tutta la vita è stata il nemico naturale della noia, parlo sempre della Borboni, della noia vera, di quella tremenda che si annida nella pompa dei discorsi seriosi e che può saltarti al collo inaspettatamente durante l'incontro, non so, con un principe azzurro, che improvvisamente diventa molto noioso, come raccontava la Borboni appunto di quando, giovane e bella, anzi giovane e bella, come diceva lei, dopo tanti preparativi finalmente ebbe l'incontro con un bellissimo erede al trono. Forse questo incontro non era proprio esaltante, se poco dopo quando il principe azzurrissimo tra ostriche e champagne le chiese: cosa prende, cara? La Borboni rispose: un treno! In un mondo nel quale, come disse Andy Warhol, ci sono molte persone che si prendono una celebrità che dura un quarto d'ora, è incredibile poter cavalcare un secolo intero con un colpo d'ala che dura per 95 anni, di cui 80 passati a calcare un palcoscenico. Questa è la vita e la leggenda di una grandissima donna, di una grande attrice, Paola Borboni. Ognuno di noi può cadere e risalire, certo farlo per 80 anni non è da tutti. Se volete mandare dei commenti o segnalare